Sono le ore 14:52 di lunedì 21 maggio 2018 e questa è una comunicazione di servizio, fondamentalmente per dire che questo podcast trasloca su un'altra piattaforma. Passeremo da Anchor a Podbean e lo faremo perché semplicemente dopo aver caricato ben 6 episodi mi sono reso conto che Anchor non supporta i file stereo. Uno può anche affannarsi a cercare il microfono migliore per creare questo clima avvolgente, i suoni della strada, eccetera. E poi scopre che la piattaforma da sola decide di trasformare tutto in mono. E questo sicuramente è un problema. E quindi nei credit di questo podcast troverete il nuovo indirizzo di Podbean. Posso anche dirvelo: pendodeliri.podbean.com. Dove troverete anche i 6 episodi precedenti tutti in stereo e ripartiremo da lì. Grazie.